9 in punto. Buona giornata, cari ascoltatori, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti a 9 in punto. Allora, oggi ci vogliamo occupare di sanità, ci vogliamo occupare di liste d'attesa. Ci sono dei dati, quelli diffusi da Cittadinanza Attiva qualche tempo fa, nel rapporto PIT Salute 2013, che indicano delle medie molto alte, appunto, per le liste d'attesa. Un anno per una mammografia, 9 mesi per un ecodoppler o una colonscopia, 8 mesi per una radiografia. Già mi scrivete sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24 e scrivete anche al mio account Twitter Simone Spezia dicendomi: no, ma guardate, io ho avuto degli esempi ottimi, nel senso che ho prenotato, nel giro di un mese ho fatto la visita, magari addirittura nel giro di 10 giorni, tutto molto rapido. Per carità, ci sono degli esempi ottimi, ci sono anche naturalmente degli esempi pessimi, e questi vanno a costituire naturalmente una media che diventa molto alta. Parleremo della situazione del Veneto, dove si è decisa l'apertura degli ospedali di notte e di domenica, con risultati che paiono buoni al momento dal lato delle prenotazioni. Il problema, come si diceva, però, è a monte ed è diverso e riguarda nelle migliaia di prescrizioni cosiddette inutili fatte dai medici. Medici che spesso agiscono in base ad un principio anche corretto, se vogliamo, di autotutela, praticando la cosiddetta medicina difensiva. Si prescrive un esame per evitarsi guai giudiziari in futuro. Come capite bene, è un problema dal quale è difficile uscire. Però, prima di aprire su questo tema, che è il tema centrale della trasmissione, consentiteci di collegarci con una metafora, per quanto sia una metafora abusata. Il raddrizzamento della Costa Concordia, un po' come il raddrizzamento del paese, viene letto in queste ore. Raffaella Calandra, inviata al Giglio di Radio 24. Buongiorno, Raffaella. Sì, buongiorno Simone, a te e ai nostri ascoltatori. Allora, vi dico subito che sono appena iniziate le operazioni di rotazione della Costa Concordia. Ci avevano detto che ci sarebbe stato un ulteriore slittamento di circa mezz'ora, in realtà così non è stato, e proprio alle 9 in questi istanti ci hanno comunicato che l'operazione di power buckling è cominciata. Durerà dalle 10 alle 12 ore, quindi si parlerà intorno alle 20, sapremo se l'operazione sarà conclusa e se avrà avuto buon esito. Al momento ci sono delle telecamere sottacquee che stanno verificando il distacco della nave dagli scogli su cui è adagiata da un anno e mezzo, e ogni 2 ore saranno fatte delle verifiche sulla tenuta di tutto quanto questo complesso cantiere galleggiante che è intorno al relitto. Simone. Allora, Raffaella, io ti richiamerò nel corso della trasmissione per sentire un po' come vanno le cose, anche se i tempi sono lunghi, capire se le cose funzionano o non funzionano, quindi ci risentiremo più tardi nel corso della trasmissione e poi naturalmente per tutto il giorno nel corso dei nostri giornali radio. Quindi a più tardi, Raffaella. Noi veniamo a questo tema che abbiamo deciso di affrontare oggi, ossia quello delle liste d'attesa. Il nostro primo ospite, tra poco ci raggiungerà anche Luca Zai, il presidente del Veneto. Il nostro primo ospite è Riccardo Fatarella, presidente della sezione Sanità Un'Industria del Lazio, docente alla Lewis Business School, direttore generale del gruppo sanitario Dharma, è stato anche un dirigente sanitario nel settore pubblico e quindi ci può aiutare bene a inquadrare il fenomeno, a capire il problema. È già stato ospite nostro un'altra volta e in genere lo apprezziamo molto proprio per la chiarezza con la quale definisce i problemi. Allora, ci aiuti, Fatarella, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a lei, Spezia, a tutti gli ascoltatori. Allora, ci aiuti ad inquadrare il problema e soprattutto inizia ad indicarci una via d'uscita da tutto questo. Ma la via d'uscita è, purtroppo questo paese l'ha già trovata, il problema è non riesce a praticarla, questa è la difficoltà. La via d'uscita è basata su 2 punti di lavoro. Il primo, quello che ha sperimentato con successo, almeno per ora, io gli auguro anche che si consolidi, il Veneto, aumentando le ore di prestazione. Cioè, noi abbiamo delle tecnologie, delle macchine costose, complesse, più o meno, insomma, che vengono usate poche ore al giorno. È chiaro che questo riduce la potenzialità del servizio, sia esso pubblico e a volte anche delle strutture private accreditate. Tra l'altro, Fatarella, da un punto di vista strettamente aziendale, per così dire, cioè volendo intendere la sanità con tutti i caveat come un'azienda, voglio dire, è un utilizzo dei macchinari e degli impianti assolutamente inefficiente. No, è una follia, nel senso che non c'è azienda che ha domanda di servizi, nel nostro caso non è una industria, la sanità è un servizio, le aziende sanitarie sono aziende di servizi alla persona. Dicevo, non c'è un caso, non ha senso un'azienda che a fronte di una domanda di pazienti, di prestazioni, non si organizza per soddisfarla, e questo è il primo punto. Quindi ben vengano gli allungamenti di orario di apertura, il sabato, la domenica, cosa che peraltro alcune strutture private fanno. Tenete presente che c'è un effetto, diciamo, trascinamento: la buona sanità pubblica trascina la buona sanità privata accreditata, la buona sanità privata accreditata impone alla sanità pubblica di migliorarsi, quindi c'è un effetto positivo se tutti si danno da fare, si dessero da fare. Dall'altro, l'altro aspetto sul quale lavorare è: ma sono proprio necessarie tutte queste prestazioni che vengono prescritte? Non possiamo recuperare un'idea per cui quelle essenziali vengono erogate con oneri a carico del servizio pubblico, siano esse strutture pubbliche gestite direttamente come gli ospedali, le aziende ospedaliere o le cliniche accreditate, i laboratori accreditati, ma una parte, quelle non essenziali, bene, i cittadini che le vogliono, beh, si dovranno domandare se ne hanno proprio un bisogno e un'indispensabilità, e quindi se la pagano. Allora, se no non ce la faremo mai. Allora, Fatarella, con questo mi sembra che stiamo toccando un tema centrale. Dovevamo avere anche un rappresentante dei medici che al momento risulta irraggiungibile. Vedremo di riuscire a reperirlo nel corso della trasmissione, perché questo mi sembra il tema centrale. Intanto saluto il presidente del Veneto, Luca Zaia, buongiorno. Buongiorno a tutti. E bentornato ai nostri microfoni. Dunque, c'è un problema a monte, come spiegava Fatarella, che è quello dell'eccesso di prescrizioni. Mi scrivono sulla pagina Facebook, mi scrive Pierluigi Corradi, dice: occorre disciplinare in modo diverso la responsabilità del medico, il contenzioso ormai è diventato un business legale, e questo è sicuramente un tema. Intanto stiamo ai fatti, Zaia, come sta andando il vostro esperimento? Alla grande, posso rispondere alla grande? Sì, ho sì. Avuto ragione, e me lo dico da solo, perché è stata una sfida che ho voluto portare avanti. Tre anni fa, quando sono stato eletto come governatore, ho detto: bisogna abbattere le liste d'attesa. La grande tesi era quella di comprare più macchine e avere quindi più massa critica, no? Io invece ho fatto la scelta di aprire gli ospedali il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica di notte, dalle 8 di sera alle 24, poi con un po' di varianti in base alle peculiarità dei singoli territori. E guardi, io devo ringraziare tutti gli operatori del mondo della sanità, gli infermieri, gli amministrativi, i medici, perché stiamo facendo numeri impensabili. Del resto, quello che io immagino. Ce ne dà qualcuno, Zaia, di numero? Ma guardi, le dico. Paio di ULS, Treviso, abbiamo iniziato, tutti gli ospedali in Veneto hanno iniziato dal 1° di settembre ufficialmente, poi ci sono state delle fasi sperimentali. Allora, Treviso ha già 500 TAC e chiuderà l'anno da settembre al 31 dicembre con 2300 diagnostiche fatte, quindi TAC e risonanze. Vicenza ha già una richiesta per 700 TAC, ma guardi che è una rivoluzione culturale, no? Occuparsi di giorno in ospedale di chi è lì ammalato, ricoverato, e di notte occuparsi di un'altra fetta di popolazione che va lì per la diagnostica. È una rivoluzione culturale che mi permette di dire anche banalmente, ed è quello che io dico sempre ai miei uomini: immaginate la povera gente, perché io la chiamo il popolo, che parte da casa, trova le strade decongestionate, vuote, perché di notte non c'è traffico, arriva in ospedale e trova il parcheggio vuoto, perché non c'è il caos da giorno, entra nell'ospedale, non lo trova congestionato e nella frenesia della quotidianità, ma trova un ospedale dove tu vai come in una clinica super VIP privata, vai lì, hai già prenotato, non chiedi ferie, non chiedi permessi, puoi portare un genitore anziano, puoi portare un bambino. Insomma, guardi, da noi è cambiato il mondo. Allora, è interessante. Naturalmente la cosa comporta anche, e qua veniamo a quello che secondo me è uno dei grandi temi, no? Perché probabilmente il Veneto, magari anche la Lombardia, una cosa di questo genere se la possono permettere. Ci sono altre regioni che non se la possono permettere, perché una cosa di questo genere vi costa dei soldi, nel senso che dovete pagare il personale di più, e su questo avete trovato un accordo. Di che cifra stiamo parlando più o meno, Zaia, al momento? Mi perdoni se dissento un po' da quello che dice, nel senso che la vera sfida è quella di fare degli accordi, pensando anche che stiamo erogando servizi a delle persone, che quindi è un'attività con una componente umana fortissima, quindi anche di motivazione, per cui noi non abbiamo faticato a trovare un accordo che ci ha costato 30 milioni di euro. Detti così sembrano un sacco di soldi, detti rispetto al nostro bilancio sono 30 milioni su un bilancio da 8 miliardi e 2. Ma il bilancio del Veneto non è diverso da quello della Sicilia piuttosto che della Lombardia o del Lazio, perché il riparto dei soldi della sanità è nazionale. È che in Veneto amministriamo bene, e quindi il pasto fornito in ospedale, cioè il cibo che diamo al nostro paziente, mediamente ci costa 6 euro e mezzo. In giro per l'Italia il pasto in ospedale, ce lo dice il Ministero della Sanità, viene a costare anche 60-80 euro a paziente. È lì che bisogna risparmiare i soldi. Guardi, Zaia, su questo ci diventiamo matti, perché è una cosa che io ancora non riesco a capire. Parliamo di costi standard nella sanità. Da quando è stato riformato il titolo quinto, continua a parlare di costi standard della sanità e questi non sono applicabili. È una cosa che veramente mi fa diventare matto. Andrea, sono applicabili, non ci vogliono applicare, sono pronti i costi standard. Sappiamo quanto costa una siringa, quanto costa un pasto, quanto costa la diagnostica. E qua la verità è che abbiamo quattro regioni che hanno un buco da 5 miliardi di euro in Italia. E qua veniamo anche al grande tema che il Sole 24 Ore sta sollevando da giorni, su i costi di questa, su come si è strutturata, no? Questa riforma del titolo quinto della Costituzione, questo federalismo che in realtà è stato nella sostanza, almeno in certi casi, un moltiplicatore di costi. È un tema ancora più ampio che prima o poi toccherà affrontare in profondità. Andrea da Milano, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ospiti. Senta, io solo per portare la mia esperienza, io ho mia moglie che lavora in una casa di cura abbastanza conosciuta di Milano, e questa casa di cura adesso ha bloccato le prestazioni nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, semplicemente perché la Luminosa Lombardia non è in grado di pagare le prestazioni stesse. Questo è quanto, e io rimango abbastanza stupito di questo, cioè ci sono come si dice, aziende che non sono in grado erogare le prestazioni per le quali avrebbero dipendenti, personale lì a fare nulla sostanzialmente. Sì, e siamo su Milano in questo caso? Assolutamente sì. Grazie per la testimonianza, Andrea, poi chiederemo anche a Fatarella poi come siano possibili cose di questo genere anche in regioni con il bilancio teoricamente in ordine. Renzo d'Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno Spezia, buongiorno, grazie per questa possibilità. Molto semplicemente io ho bisogno di fare una risonanza magnetica alla schiena, e mi sono trovato di fronte a situazioni assurde. Tempi di attesa di vari mesi, 8-10 mesi, fino a quando sono riuscito addirittura telefonando ospedale per ospedale, badi bene, quindi non esiste neanche un centro unico di prenotazione per cose di questo genere, niente di che. Ho chiamato alla fine un ospedale qui della Regione Marche, mi dicono guardi, c'è da aspettare tipo 8 mesi, una cosa del genere, oppure viene privatamente 150 euro. 10 giorni e la facciamo. Io sinceramente sono un dipendente, ho una busta paga e vedo tutti i mesi un botto di tasse che se ne vanno, vorrei sapere dove vanno a finire a questo punto, se poi mi devo anche pagare una risonanza magnetica per farla in tempi umani. È assurdo. Allora, voglio venire a questo punto a Fatarella, poi partiremo direi nella seconda parte della trasmissione al tema più strettamente della responsabilità dei medici, della prescrizione degli esami cosiddetti inutili, perché mi scrive qualche ascoltatore, dice il il medico si accorge che un esame è inutile solamente nel momento nel quale l'hai fatto, prima non se ne può accorgere, chissà, chissà, chissà, su questo. Però Fatarella, io prima vorrei venire a questo, perché l'esempio che portava Zaia, no, sui pasti, su quanto costano i pasti, no, è illuminante, mi sembra. Scrive un ascoltatore su Facebook, 60 euro a pasto, ma che gli servono Tartufo e Barolo? Insomma, no, e qua veniamo a quello che è lo snodo centrale. Una cosa di questo genere si fa con un po' di risorse, evidentemente. Adesso Zaia, mi sembra, lei non mi abbia dato le cifre, Presidente, ma mi sembra sui 30-40 all'anno vi costa, 30-40 milioni. No, sono 30 milioni. 30 milioni all'anno vi costa questa apertura notturna, insomma. Ci sono regioni che non hanno nemmeno margini di spesa per quello, eppure hanno dei costi della sanità esplosivi, Fatarella. Sì, io concordo con quello che dice il presidente Zaia, in realtà hanno costi esplosivi e la mia regione ha una tradizione ormai di due lustri di costi non controllati o controllati solo contabilmente ma non nella realtà, tant'è che anche quest'anno purtroppo dovremo registrare un disavanzo maggiore di quello che si sperava. Il discorso però è molto più, se non c'entrano neanche i costi standard, c'entra, come ho detto più volte anche in trasmissione con lei, il manico. Cioè, è possibile che nel Lazio ci sono aziende sanitarie che spendono 13-14 euro a giornata alimentare, cioè il prezzo che dice il costo, chiedo scusa, che diceva il presidente Zaia per la sua situazione, per la situazione degli ospedali del Veneto, e sempre aziende della stessa città, Roma, faccio riferimento a cose concreti e non ho sentito dire, che ne spendono 23-24 al giorno, cioè quasi il doppio. Quindi qui non c'entra nulla i costi standard, la politica, c'entra la capacità, le direttive, la capacità di controllo regionale e la capacità dei direttori generali. Se continuiamo a prendere i direttori generali in forza di principi diversi da quelli del merito e della competenza, non ci sono costi standard che tengano. Tra l'altro, i 30 milioni che dice Zaia che costa, che gli è costato questo, sono una cifra veramente marginale per i bilanci regionali. 30 milioni è una frazione del disavanzo di un ospedale romano di un anno. I grossi ospedali romani nel Lazio, romani, hanno prodotto nell'anno scorso 700 milioni di euro di disavanzo solo i grossi. Solo i romani, cioè non sta parlando del Lazio, solo no, quelli no, di Roma. Solo delle aziende ospedaliere, non delle aziende sanitarie, solo i grossi ospedali. È incredibile che non si possa trovare, e lo dico da ex direttore generale, nelle pieghe di bilanci da 3-4 miliardi, 30 milioni di possibili economie di gestione. Tagliamo qualche consulenza, tagliamo qualche appalto, diciamo, sovradimensionato, ridiscutiamolo con le imprese, evitiamo le bufale che a volte sono tali degli appalti mega strutturati che poi il cui controllo diventa impossibile, i costi a consuntivo, come l'esperienza non positiva di qualche appalto Consip applicato alla sanità ci sta dando. Quindi non si tratta di inventare molto, si tratta di fare. Mi dispiace, ma si tratta di fare. Molto semplicemente. Allora, una pausa, poi abbiamo qualche altro ascoltatore, poi voglio ancora risentire Zaia per capire qual è l'effettiva estensione di questo esperimento, per il momento coronato da successo, e poi voglio venire appunto al tema delle prescrizioni di esami cosiddette inutili, no? Che, come sapete, mette in gioco molte cose, molti dubbi, molti problemi, non solamente legali. 9 in punto. Massimiliano, sul filo della battuta, mi scrive su Twitter: attenzione, nel Lazio un'operazione come quella veneta non costerebbe 30 milioni ma 3 miliardi. Roberto Lala, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Roma e Provincia, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, come si mette insieme questa questione delle troppe prescrizioni, cosa della quale abbiamo parlato, e ci sono anche i molti dubbi degli ascoltatori, no? Dicono giustamente, ma chi stabilisce che sono esami inutili? Col senno di poi è facile, è prima che non si riesce a stabilire che sono esami inutili, evidentemente. Insomma, come se ne esce da questa cosa? Lei mi sta facendo una domanda che credo la risposta sia quasi inesistente, perché io devo condividere il pensiero di alcuni, ritengo, radioascoltatori, ma di tante persone, ma anche di tanti medici. Cioè, come si fa all'origine a stabilire se un accertamento diagnostico è inutile o no? Se io visito un paziente sospetto un fatto cardiaco, come posso non fare accertamenti ematochimici, che sono gli unici che mi pongono in condizioni di vedere se c'è qualcosa ancora prima di un elettrocardiogramma? Quindi è evidente che è impossibile. Il tutto deve essere sempre coniugato tra l'esperienza del medico, la clinica, l'esame obiettivo, una serie di parametri, insomma, medici, che più o meno ti consentono, secondo un filo logico, in ragione della professionalità del medico, di stabilire cosa è più o meno necessario o indispensabile, direi, perché quello che è necessario si deve comunque fare. Se non è indispensabile, uno fa altri percorsi, ma non si può escludere a prioristicamente se un esame serve o non serve, finché esiste comunque il dubbio della diagnosi. Certo. Quindi è questo il problema, appunto, grosso. E quindi? Quindi è evidente che parlare di accertamenti diagnostici inutili deve essere fatto con grande attenzione, sia dalle istituzioni, che a volte è come quando si parla di medicina difensiva, è un termine, sì, che io non è che condivida, perché non è che la medicina è difensiva, la medicina oggi ha raggiunto degli stati tecnologici tali, di avanzamento tale, che utilizza strumenti che quando mi sono laureato io 30 anni fa chiaramente non c'erano, e quindi non ci si poneva la domanda. Sì. Ma oggi che ho dei mezzi a disposizione a tutela del paziente, che io poi richieda tutta una serie di accertamenti, che lo Stato, in quanto trattasi di spesa, e mi rendo conto che è un problema serio, perché è un problema serio, ma che lo Stato, in quanto trattasi di spesa, mi dice che sono accertamenti inutili, beh, allora la mia autonomia professionale non capisco dove deve arrivare e dove può arrivare. E tra l'altro, se ho questa autonomia professionale, come si può dire da una parte che sono accertamenti inutili e quindi rispondo della spesa, però dall'altra, in sede giudiziale, se io poi non li ho fatti, mi rispondo professionalmente perché non ho preso le decisioni giuste. Il problema è proprio quello, Lara. Io vorrei ricoinvolgere Zaia, perché questa apertura degli ospedali di notte, di sabato, di domenica, è un'iniziativa che risolve il problema a valle, naturalmente, no? Ossia lo smaltimento delle liste d'attesa, anche, come diceva lei, un cambiamento culturale, cioè gente che prima si doveva prendere il permesso molto semplicemente per andare a fare una visita medica e invece un esame diagnostico, e invece adesso, insomma, non ha bisogno di prendersi il permesso, può andare, va di notte, è tutto più semplice, più rapido e così via. Però c'è il problema a monte, che è questo che dicevamo. Secondo alcuni calcoli, adesso vi chiedo perdono se non mi ricordo la fonte, ma era affidabile, questi esami inutili, cosiddetti inutili, valgono un 10,5% della nostra spesa sanitaria totale. Quindi è una cosa rilevante, oltre ad ingrossare queste liste d'attesa. Da questo lato state facendo qualcosa, Zaia? Ma guardi, io le dirò innanzitutto che da un punto di vista industriale aver aperto gli ospedali di notte e far lavorare di più le macchine ci permette di abbattere di più i costi, di fare economia di scala, ma di avere un grande vantaggio, che le macchine si esauriscono prima, vengono rinnovate con più velocità e quindi abbiamo sempre macchine innovative. Quanto al tema degli esami inutili, io ho massima fiducia dei medici del Veneto, e non vorrei che la pianta che cade fa più rumore della foresta che cresce, però abbiamo uno staff di medici che è assolutamente coerente con il giuramento che ha fatto, no, ad Ippocrate. Le dico che l'ospedale del futuro che io vedo, e lo dico sempre ai miei tecnici, è un ospedale che per assurdo noi dovremmo immaginare senza letti, dove si farà sempre più dei surgery, dei hospital, dove la gente starà sempre meno in ospedale e dove faremo sempre più diagnostica. Le do un dato, per non andare fuori tema. L'ospedalizzazione media del Veneto è di 7 giorni, vuol dire che mediamente un paziente da me sta 7 giorni sul letto in ospedale. L'ospedalizzazione media di qualche regione del sud, me lo lasci dire, arriva a 30 giorni, il che vuol dire che anche aziendalmente sul mio letto curiamo 4 pazienti in un mese e in quella regione ne curano uno solo. Quindi la vera sfida, mi perdoni se lo dico, sicuramente sono il contenere gli esami inutili, però poi alla fin fine le macchine sono, proliferano e si riesce a scandagliare sempre di più nel corpo umano. Però forse la vera sfida è quella di deospedalizzare, è quella di capire che un paziente a letto, tenuto lì inutilmente a letto, mi costa un sacco di soldi, vale la pena invece di fare una bella diagnostica e lasciare i pazienti a casa. Questo è un tema che tra l'altro affrontammo anche con Fatarella quando facemmo l'ultima puntata, e dipende anche da altre dotazioni all'interno della regione. Prima di tornare su questo voglio sentire qualche ascoltatore. Claudio dalla provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno, grazie e complimenti per il programma. Allora, guardi, io volevo dire che non è un'eccezione del Veneto questo, perché io già nel 2007, quando mio papà stava male all'interno dell'ospedale, mi sono alzato di notte e insieme a un dottore abbiamo fatto le lastre e tutto quello che c'era da fare, ed era all'interno dell'ospedale, pensi. Quindi, diciamo, se c'è la collaborazione di, questa è un'eccezione, di personale specializzato, si può fare, e l'ho fatto addirittura nel 2007, ma volevo mettere anche i punti su diciamo altre cose. I costi della sanità, secondo me, sono negli sprechi. Per esempio le cucine hanno dei complessi enormi dentro che potrebbero risolvere tranquillamente con pochissime persone per delle diete particolari, quindi mettendo catering appositi, no? Poi anche i materiali. È lì, e le corporazioni e le spese, queste sono le due grossi, diciamo, pesi della sanità e anche delle nostre tasse. Grazie Claudio, sentiamo anche Fiorella dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori, a lei. Breve, mi raccomando, Fiorella. Sì, allora, lista d'attesa, non riesco a capire perché a livello regionale non ci sia un sistema integrato di prenotazione, cioè se io prenoto in questo caso sull'azienda Unità Sanitaria di Modena, non posso, diciamo nella zona di Modena, verificare se ho dei posti per quella, diciamo, esame su Bologna, su Reggio Emilia, cosa che invece facendola personalmente e chiamando una sanità mi è già capitato di trovare. Allora, vuol dire tempi di attesa che si diventano molto più brevi e anche meno spese, perché se io, visto che non trovavo su Bologna, ho trovato su Correggio fare un esame particolare sulla di vista, e perché da subito io non ho potuto verificare che su Correggio c'era posto, che voleva dire dare, diciamo, persone su Correggio che erano meno e smaltire le code su un'altra zona. Cioè, questa è una cosa assurda. Fiorella, condivido pienamente, e questo è un tema, secondo me un grandissimo tema, che non riguarda solamente la sanità, ma riguarda tutta la pubblica amministrazione, dell'operatività, dell'interoperatività delle banche dati del nostro settore pubblico, che sostanzialmente non c'è. Allora, prima di tornare da Fatarella, Raffaella Calandra, ruota questa Concordia? È appena cominciato, e per renderlo visibile ad occhio nudo per aspettare 2 ore, ci hanno detto. Sì, l'operazione è cominciata, come vi ho raccontato, da circa 40 minuti, e è stato dato il comando ai martinetti idraulici che hanno imbragato praticamente tutto il sito e che dovranno fare, diciamo, pressione per iniziare la rotazione. La fase più delicata è proprio questa, cioè il momento in cui la nave, che è adagiata sul fianco, deve diciamo staccare allo scoglio, e poi ci sarà un altro passaggio delicatissimo, quello quando arriva al 65° grado, ci hanno detto, cioè si procede per gradi. Tempo previsto, Raffaella, non i tempi, non le 12 ore, il tempo proprio, bel tempo, cattivo tempo, rischio mare. In questo momento è bello, quel temporale stanotte è bello, anche se stanno tornando un po' delle nuvole, ma c'è un'altra variabile sui tempi di durata dell'operazione, che è le condizioni del relitto, che al momento nessuno conosce, quindi nel momento in cui l'avranno verificata e capiranno anche bene se effettivamente le 12 ore potranno essere rispettate o meno. Bene, ti sentiremo ancora nei giornali radio, intanto io torno da Riccardo Fattarella per aiutarmi un po', innanzitutto sui ragionamenti che faceva Lala, che da medico sono anche comprensibili, cioè è una cosa che io capisco, che uno dica, insomma, io come faccio, no, a non prescrivere un esame, a considerarlo inutile, come si risolve questo problema, Fattarella? No, ha ragione Lala, a priori è molto difficile, però non è proprio che non possiamo far nulla, perché sennò è inutile anche discutere, come diceva qualcuno molti anni fa, se un problema non ha soluzione non è un problema, no? Se ha soluzione lavoriamo sul fare. Allora il problema potrebbe essere ridotto, certo non totalmente superato, dall'adozione di linee guida che a livello internazionale ci sono, nelle singole patologie o nelle patologie più ricorrenti, per capire se quel paziente in qualche misura richiede. Dopodiché però, ci ho detto, un'autonomia al medico, al professionista, di capire la specifica condizione del paziente va comunque lasciata, quindi è illusorio pensare di poter a priori definire con assoluta certezza se quell'esame è appropriato o inappropriato. Possiamo dire se è ragionevolmente utile o ragionevolmente meno utile, ma non oltre. Questo almeno è quello che in letteratura si dice, tranne coloro che pensano di poter mettere le braghe al mondo. E vabbè, ce li terremo così. Certo. Allora, mi scrive un ascoltatore invece via SMS, Claudio da Venezia, dice: una mia amica medico che opera a Londra dice che hanno risolto il problema delle analisi eccessive creando dei protocolli per qualsiasi sintomo. Il medico che rispetta il protocollo e prescrive quanto previsto non è legalmente perseguibile. Se il medico vuole fare qualche analisi in più lo deve giustificare con motivazioni tecniche. Anche questo è interessante. 9 in punto. Lucia dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, è capitato a me più volte di dover essere in lista d'attesa anche per 9 mesi. Nella stessa struttura ospedaliera, stesso call center, me la danno privatamente nel giro di una settimana. Ho chiesto più volte di parlare anche col direttore sanitario, non sono mai riuscita a venirne a capo. Non capisco perché, anche perché mi trovo, dopo 4 mesi di aspettare un'ecografia alla tiroide, aprono l'ambulatorio per me e lo chiudono dopo di me. Non c'era nessun altro che attendeva questa verifica. Mi devono dare una risposta su questo o no? Grazie Lucia. Magari una domandina Zaia su questo, adesso la giriamo. E Roberto da Milano, buongiorno. Breve. Sì, buongiorno. Solo due cose. Uno, io sono uno di quelli che sfrutta per esempio il sabato, abito in Brianza, ho trovato un ospedale che fa degli esami di controllo al sabato, quindi ben venga, perché io non, lavorando durante la settimana non riesco altrimenti a fare diversamente. L'altra cosa, sentivo parlare prima di Consip, io per anni mi sono occupato di gare d'appalto nel settore alimentare e ho trattato anche la Consip, gara alla quale non ha mai partecipato la mia azienda perché è strutturata in una maniera tale che è difficile partecipare, quindi io direi che forse se fosse fatta in maniera tale che non possa partecipare sempre la solita azienda vincendo peraltro per 6 anni, sarebbe un po' meglio, voglio dire, perché alla fine questo è quello che succede. E nell'alimentare poi questo succede. Vabbè, questo è un altro mega capitolo, Roberto, diceva prima il governatore, che non riguarda, no, ha perfettamente ragione, e che però dico non riguarda solamente la sanità. Certo, la sanità è un capitolo di spesa fondamentale da questo punto di vista, però appunto non riguarda solamente la sanità. Allora Zaia, c'è appunto il tema delle strutture pubbliche utilizzate per la sanità privata, per così dire, la dico molto semplicemente. Tra l'altro l'ascoltatrice nella sua regione, insomma, chiamata dalla provincia di Vicenza, cosa dice? Dico innanzitutto che noi siamo attenti a tutte le segnalazioni, per cui questa signora può tranquillamente chiamare lo 041 279 28 63, 041 279 28 63, risponde la mia segreteria, avrà risposta. Però io voglio denunce che siano circostanziate, perché nel 90% dei casi mi pareva, non posso dire so, ma è meglio che non parli, ecco, queste robe qua io non le voglio sentire. o ci sono nomi e cognomi, date, e allora io intervengo, più volte ho mandato le ispezioni, oppure non fatemi perdere tempo. Perché una signora che chiede una mammografia urgente in Veneto, in 24 ore noi facciamo la mammografia. Sfido chiunque a dire il contrario. Se poi un cittadino è ossessionato dal fatto che la vuol fare solo lì e solo in quel posto lì, aspetta il tempo che deve aspettare. Non sto parlando del caso della signora, sto parlando in generale. Per cui noi abbiamo messo anche in rete i nostri mammografi piuttosto che altre partite. Voglio anche ricordare che la sanità del Veneto ha 94.000 dipendenti e, come tutte le aziende, è un'azienda complessa, perché noi non produciamo bulloni o auto o altre robe del genere, noi produciamo servizi alla persona e il servizio che diamo è curare la salute. Quindi la collaborazione di tutti anche nel segnalare è fondamentale. Allora Zaia, noi siamo quasi in chiusura. Dato che ci arriva qualche sollecitazione dagli ascoltatori, come sa abbiamo molti ascoltatori nella sua regione, abbiamo parlato per 50 minuti di sanità, una domandina sull'indipendenza veneta, visto che le sollecitazioni ci arrivano, domani c'è il consiglio regionale sul referendum, lei come si schiera? Beh, guardi, io mi sono sempre schierato a favore del referendum, domani io spero che tutti votino la richiesta di referendum, perché anche chi è scettico, chi non vorrebbe mai l'indipendenza, comunque non può togliere ai cittadini il diritto di esprimersi. Poi vince la maggioranza a favore dell'indipendenza oppure no, ma quella è un'altra partita, la partita dei seggi elettorali e la partita del referendum. Glielo dice uno che, pur non condividendo molte idee su alcuni referendum, li ha sempre sottoscritti e sostenuti, ad esempio quelli dei radicali. Io penso che deve essere chiaro che domani il Consiglio decide se dare di avviare questa richiesta, sottolineo avviare questa richiesta, della circa la possibilità di indire un referendum, perché i veneti si esprimano a favore o contro l'indipendenza. Qualcuno mi sta ascoltando e dice: ma cos'è questa novità? Ma guardi, il federalismo è centripeto, cioè unisce i paesi, il non federalismo è centrifugo. L'ho detto prima, un pasto in ospedale in Veneto costa 6,50 euro, in giro per l'Italia costa 60-80 euro. Se questo pasto costasse 6,50 euro in tutta Italia, le posso garantire che non staremmo qui a parlare del referendum. Senta, e in caso, nel caso avesse il via libera il referendum, lei cosa voterebbe? A favore dell'indipendenza e dell'autonomia? Io voto sì, ma non è un mistero, l'ho sempre detto, si figuri se non voto sì. Naturalmente, allora grazie Luca Zaia, grazie Riccardo Fatarella, grazie Roberto Lala. Voglio chiudere oggi con un paio di ascoltatori, però devono stare nei 30-40 secondi al massimo. Antonio da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, io sono ortopedico, riferivo solo a questo a proposito di esami inutili. In Romagna le USL, le aziende, per validare in una struttura privata un intervento per dito a scatto, che è una patologia puramente di diagnosi clinica, la diagnosi la fa il medico e la fa lo stesso malato, pretendono un'ecografia, che è un esame inutile, non costa molto ma è inutile e può essere fuorviante. Però le aziende, siccome probabilmente non si fidano dei medici, lo pretendono e questo secondo me è scandaloso. Seconda cosa, per i tempi d'attesa, io da ortopedico 68enne quasi, dico che non ha mai guarito tanta gente in ortopedia come le liste d'attesa, perché spesse volte molte persone vengono operate troppo presto, che col tempo e con le cure potrebbero guarire, quindi il miglior medico è la lista d'attesa. Terza cosa, penso che al giorno d'oggi, e la motivazione è troppo lunga da spiegare, i medici siano molto più ignoranti, la tecnologia diagnostica sia molto più avanzata, quindi i malati sono curati allo stesso modo. I medici sono più ignoranti. Allora, Antonio, purtroppo dobbiamo concludere, chiedo scusa a Matteo da Verona e a tutti gli altri che non sono riuscito a far intervenire perché insomma, abbiamo un minuto al massimo per la chiusura. Dunque, i ringraziamenti a loro, insomma, quando torneremo sul tema, se faremo in tempo a tornare sul tema, potete richiamare volentieri, i microfoni naturalmente su questo sono aperti. Ancora i ringraziamenti ai nostri ospiti Luca Zaia, Riccardo Fatarella e Roberto Lala per essere stati con noi. Grazie a Paolo Corleoni in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione e Laura Fagin in assistenza. Un ringraziamento come sempre a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 14 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.